24 mattino. 17 minuti dopo le 8 al 349-238-6666, questo è il numero degli SMS, arrivano le vostre segnalazioni e riguardano immancabilmente i figli. Parleremo di sport, di eccellenze nello sport oggi, accantonando per un attimo il calcio, che naturalmente la fa da protagonista in tutte le altre occasioni. Parleremo degli altri sport individuali e di squadra. È stata incoronata ieri una città della provincia, Livorno, come centro d'eccellenza per la pratica, per i piazzamenti. Pensiamo ai risultati ottenuti ai giochi olimpici di Pechino. C'è una judoka, Giulia Quintavalle, che viene proprio da Livorno. L'argento di Luca Agamennone nel canottaggio, specialità 4 di coppia. C'è stato anche un bronzo nella sciabola a squadre di Aldo Montano. Insomma, ci sono un po' di campioni, ma a prescindere dalle individualità, è il frutto di un vivaio che viene curato. E ieri parlavamo di giovani e alcol, dei segnali di disagio che caratterizzano quest'età, del gusto profondo dell'esser vivi. Ora, a prescindere dalle grandi partecipazioni, alle grandi idee che la storia ha regalato, senza dubbio anche lo sport svolge un ruolo importante per lo spirito di emulazione, per lo spirito di squadra, insegna lealtà, insegna autodisciplina. Insomma, si impara anche nello sport. Per esempio, l'integrazione è anche uno strumento di integrazione. E allora vi abbiamo chiesto, al di là di Livorno, di Trento, di Bolzano, di Genova, delle città che si piazzano ai migliori posti in Italia, dalle vostre parti, da ovunque ci ascoltiate, cos'è che andrebbe potenziato, migliorato, aperto, di cosa sentite la mancanza, segnalatecelo, avremo la possibilità di parlarne. Prima però riflettori puntati su una tragedia che è scomparsa dai giornali e dagli organi di stampa nazionali. Madonna! Qui è chiusa la strada, ci arrivano i carri dal posto. Momenti drammatici, senza dubbio da brivido per chi riascolta questo filmato, che tra l'altro ha fatto il giro del mondo ed è stato così girato in maniera amatoriale, poi consegnato ai grandi organi, alle grandi televisioni anche americane, il 29 giugno. Eppure un mese e mezzo dopo l'esplosione di Viareggio c'è una città intera che chiede giustizia, e lo chiede dalle colonne anche di un giornale, il Tirreno, che instancabilmente documenta quello che è il dolore e la sofferenza di chi ha perso dei parenti, delle persone nella tragedia, ma di chi ha anche avuto dei danneggiamenti consistenti, di chi si è visto reinventare la vita a causa di qualcosa che era stato definito attribuibile alla mala sorte, ma non solo, dal Presidente del Consiglio, qualcosa che è qualcuno che dovrebbe avere invece delle precise responsabilità. Do il mio benvenuto in trasmissione al professor Gustavo Visentini, professore ordinario di diritto commerciale, direttore del centro di ricerca per il diritto d'impresa, CERADI, alla LUIS, alla Libera Università Internazionale di Studi Sociali. Guido Carli, buongiorno. Buongiorno. E vorrei sentire come la città sta vivendo questo silenzio che è piombato intorno a questa tragedia da un instancabile cronista. Si chiama Donatella Francesconi. Ciao Donatella, benvenuta. Ed è la giornalista del Tirreno che ogni giorno copre l'esplosione di Viareggio. Sappiamo che domani ci sarà un concerto, buon per Zucchero, per Irene Grandi, per gli artisti che hanno deciso di sollevare il velo, di sensibilizzare, ma a parte questa mobilitazione, diciamo così, del mondo dell'arte, dello spettacolo, sono andati tutti in ferie. Sì, la sensazione che si ha è un po' questa, nonostante che il governo poco prima di Ferragosto abbia nominato un commissario straordinario indicando nel presidente della regione toscana Claudio Martini la figura che dovrà curare la ricostruzione. Per il 22 è attesa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che stanzia 15 milioni appunto e rende operativa la figura del commissario. Per il resto l'estate è calata su via Ponchielle e via Porta Pietrasanta con i loro 29 morti, 7 feriti ancora gravissimi in ospedale. Eppure l'ultimo funerale si è celebrato molto recentemente, e quando? Sì, è morta proprio poco prima di Ferragosto, alla vigilia di Ferragosto, Emanuela Menichetti, 21 anni, tra le giovani vittime si contano molti bambini in questa strage. È stata oltre un mese ricoverata in ospedale e poi un'infezione, che è il pericolo maggiore perché ha subito questo genere di ustioni così vaste, così profonde, se l'è portata via nel giro di quasi 24 ore. E stando agli atti raccolti fino a questo punto dalle procure, chi è responsabile di quanto accaduto? Quali sono le responsabilità, che immagino siano anche diffuse? In questo momento nessuno, c'è un fascicolo aperto contro ignoti presso la procura di Lucca. Non c'è nessun indagato, la procura ha acquisito i contratti, che sembrava quasi un assurdo, ma i contratti che legano le diverse società che sono in qualche modo compartecipi di questa vicenda. I contratti sono in tedesco, per quello che sappiamo dalla procura di Lucca, devono essere tradotti. Vabbè, non è che sia proprio una lingua, diciamo così, oscura e in via di estinzione. Trovare qualcuno tra i funzionari che parla il tedesco, cioè, può richiedere mezz'ora, 40 minuti, credo. Sì, tra l'altro esistono invece in questa miriade di imprese almeno una di queste aziende che ha fatto da tramite tra la GATX, che era l'azienda americana con filiale austriaca che trasportava il GPL, quindi la proprietà dei carri, e le Ferrovie dello Stato. Esiste appunto un'azienda di Genova che ha fatto da mediatore commerciale e che quindi dovrebbe avere almeno i contratti in italiano. Comunque i contratti devono essere tradotti, i periti avevano chiesto all'inizio un anno addirittura per il loro lavoro, poi un anno per tradurre una cosa in tedesco. Non solo quello, per verificare i dati raccolti sul luogo della strage. Ricordiamo che dopo due giorni i binari sono stati dissequestrati, mentre per le case, per la strada, per le aziende che sono chiuse, via Ponchielli e via Porta Pietrasanta, erano un piccolo microcosmo. C'era perfino un laboratorio, uno studio di registrazione che produceva dischi di qualità e anche di un certo livello, anche in ambito internazionale. C'erano officine, c'erano appunto vite. I periti sono appunto presi un anno, poi scalati a sei mesi per verificare i dati raccolti sul posto, dati che sono disponibili a questo punto soltanto in filmati e in foto, visto che le ferrovie hanno ripristinato nel giro di pochissimo tempo la circolazione e, come dire, il luogo del crimine, tra virgolette. Cioè, quello che si era raccolto in quel momento è stato raccolto, le prove o le perizie sono state effettuate quel giorno e il giorno successivo, e poi è tornato alla normalità. Va detto però una precisazione, visto che le ferrovie comunque hanno avuto una preoccupazione condivisa che ci siano state falle nelle revisioni, nelle riparazioni, nei controlli. Questo tipo di vagoni simili a vagoni cisterna simili a quello deragliato continuano a circolare sulla rete ferroviaria italiana? No, sono stati bloccati con una precauzione, sono stati bloccati fin dal 1 luglio. Non abbiamo poi però trovato notizie nelle settimane successive se questo blocco sia stato o meno revocato. Resta un punto oscuro di questa vicenda. Va detto che alla vigilia di Ferragosto le Ferrovie dello Stato, il loro amministratore delegato Mauro Moretti, hanno inviato una nota sulla base, rispondendo a una raccolta di firme che la città sta facendo, in cui si chiedono addirittura le dimissioni dell'amministratore delegato, definendo questo quanto è successo a Viareggio una delle la tragedia, insomma, delle tragedie nei 100 anni di storia delle ferrovie. Beh, una missione importante, una missione sostanziosa. Sì, una nota che è stata molto apprezzata, devo dire, è stato un segnale importante. Altri, ovviamente, Viareggio ne attende di questo genere, insomma. Vorrei chiedere al professore Gustavo Visentini, è stato pensato, il Codacons ha creduto, di valutare la possibilità di intentare una class action, cioè un'azione risarcitoria collettiva direttamente negli Stati Uniti contro il colosso americano GATX, attraverso il referente proprio Codacons, per il risarcimento dei danni. Lei come vede questa possibilità? Sappiamo che la class action è al debutto anche in Italia. Sì, adesso lei mi stava dicendo dell'azione negli Stati Uniti, quindi è un diverso problema rispetto a quello di un'azione in Italia. Non so Si è pensato probabilmente agli Stati Uniti, perché la possibilità di azione collettiva risarcitoria in Italia dovrà riguardare fatti, anche questo naturalmente ha aperto grosse polemiche, accaduti dal 15 agosto fino al 31 dicembre, e poi sarà possibile portare avanti queste azioni collettive davanti ai tribunali solo dall'anno prossimo, dal 1 gennaio. Probabilmente questa associazione dei consumatori ha pensato bene di non far cadere nel dimenticatoio una tragedia di questo tipo e di rivalersi negli Stati Uniti. Sì, questo immagino anch'io, e nella vicenda italiana, mentre il testo oggi approvato rispetto al precedente e le proposte che si facevano è molto migliorato, è incomprensibile l'entrata in vigore posticipata, essendo una disciplina di procedura e non una disciplina di sostanza, cioè una disciplina che facilita le azioni ma non una disciplina che innova nelle responsabilità. Quindi non ha senso che venga prorogata, che venga posticipata la sua entrata in vigore. E infatti questo è stato sottolineato a più riprese, e c'è anche l'interpretazione maligna, così si definisce quella data da molti consumatori, che dice perché queste continue proroghe. Forse si vuol tenere fuori dalla possibilità di rispondere delle proprie mancanze, delle proprie responsabilità, e aziende che dovrebbero invece rispondere di quanto hanno fatto, almeno con delle dimissioni di vertice, almeno prendendo atto dei danni fatti costantemente anche nel settore trasporti ai consumatori e ai passeggeri italiani. Ma noi, dice il Codacons, siamo sicuri che ci saranno nuove posticipazioni. Ma al di là delle interpretazioni o delle sensazioni, rimanendo alla class action, vogliamo capire quali saranno le differenze tra le possibilità di rivalersi che avranno i consumatori in Italia e grandi esempi, pensiamo agli Stati Uniti o ai paesi scandinavi, dove questo tipo di tutele sono previste da anni. Al 349-238-6666 continuano le vostre segnalazioni sugli impianti sportivi da migliorare. Poi c'è anche qualcuno che si propone come traduttore dal tedesco, forse per accelerare le perizie che riguardano l'accertamento di responsabilità nell'esplosione di Viareggio. Lo ricordiamo, 29 morti, feriti ancora gravissimi, come ci ha raccontato la cronista Donatella Francesconi del Tirreno da Viareggio. Tornando invece alla possibilità della class action, che adesso in Italia c'è, così titolano i giornali, c'è questo debutto in due tempi, professor Gustavo Visentini, ma soprattutto quali saranno gli interessi che si potranno far valere in queste azioni risarcitorie collettive? Cioè, come funzionerà, semplificando il meccanismo? Mi sembra utile mettere in luce quello che è stato accennato più volte sia dalla giornalista che da lei, cioè la distinzione tra la responsabilità penale e la responsabilità civile. Senza dubbio. Anzi, lei ha precisato prima, c'è anche una responsabilità di organizzazione e addirittura una responsabilità oggettiva: quando succedono certe cose è bene che i vertici cambino, perché non possono poi controllare su se stessi. È una responsabilità oggettiva questa, che di solito lei l'ha accennato prima. La civile è l'azione di colui che ha ricevuto un danno e che chiede all'altra parte il rimborso del danno ricevuto. La class action riguarda solo questa parte, non riguarda la penale. Certo, questo è una precisazione doverosa, ha ragione, sì. Ecco, sento spesso confusione, come mai non c'è difesa, eccetera. No, una è il pubblico ministero e l'autorità giudiziaria che fa gli accertamenti, e l'azione penale che qui sta andando avanti, forse con le lentezze che diceva il giornalista sulle traduzioni, eccetera. E dall'altra parte c'è invece l'azione civile, che chiunque può fare avendone ricevuto il danno. Cioè, non è che la class action dà un'azione che non è oggi possibile fare. Quindi chi ha ricevuto il danno può fare un'azione civile, anzi può anche mettersi d'accordo, e se sono 30 che hanno ricevuto il danno, nominare un unico avvocato e praticamente fare una class action. E questo è già possibile oggi? Sì, sicuro. Cioè, allora oggi, qual è la novità introdotta? La novità è che può essere avviata un'azione, è di facilitare l'aggregazione nelle azioni. Oggi è senz'altro possibile, mi capita anche a me come avvocato, mi è capitato che 7-8 persone più, anzi, che hanno ricevuto il danno dallo stesso soggetto si uniscono e danno incarico ad un unico avvocato di difendere. E vengono tutte nel suo studio e dicono: guardi, siamo tutti interessati, ci mettiamo insieme. Danno un mandato congiunto e poi subiscono o se ne avvantaggiano della sentenza in comune. Quindi questa aggregazione e riduzione di spese, eccetera, eccetera, è possibile fin da oggi, da sempre. La class action agevola il farla, nel senso che chi ha ricevuto il danno fa l'azione e dice: questa è un'azione, a mio avviso, che può essere di classe. Il giudice riconosce che c'è la caratteristica di classe e quindi facilita la pubblicità, l'aggregazione di altri soggetti e regola il modo di avere un'unica difesa, un unico avvocato e le conseguenze sul giudicato. Quindi è una facilitazione di quello che si può fare anche oggi e che certamente oggi è più difficile. E tra l'altro è un processo economico anche dal punto di vista giudiziario, nel senso che si salvano al sistema anche tutte quelle spese per sostenere dei processi o dei procedimenti, se si arriva a conciliazione prima, individuali. Certo, proprio così. E questo è lo scopo. Quindi la nuova legge l'ha colto, perché la legge precedente, i progetti, continuavano a ruotare attorno alle associazioni di categoria dando un'azione per una difesa che nessuno magari aveva chiesto. Professor Visentini, grazie per queste precisazioni, ci sarebbe tanto da discutere, tanto da introdurre anche, lei l'ha fatto in interventi passati anche per modificare e per migliorare questa legge, ma ci interessava dare il senso generale. Professor Visentini è professore ordinario di diritto commerciale, direttore del centro di ricerca per il diritto d'impresa alla LUISS, con noi anche Donatella Francesconi, che saluto e ringrazio, la giornalista del Tirreno che ha coperto l'esplosione di Viareggio. 37 minuti trascorsi dopo le 8 e vogliamo dedicare spazio a una storia bellissima che tra poco vi racconteremo, perché vogliamo parlare di sport, ma non del solito calcio, vogliamo parlare di eccellenze e di situazioni che invece andrebbero migliorate. È l'orgoglio della provincia a prevalere in questa specie di classifica che è stata stilata secondo diversi indicatori, ma che fanno emergere che in provincia spesso lo sport si fa di più, si fa meglio, si fa con maggiori risultati. Gli indicatori sono i tesserati amatoriali, quanti bambini fanno sport, gli iscritti, i laureati alle facoltà di scienze motorie, le società sportive per i disabili, le spese sostenute per esempio per le manifestazioni sportive, le palestre. Al 349-238-6666 e continuate pure a segnalarci le vostre migliorie, quelle che vorreste vedere realizzate nella realtà, nella provincia in cui vivete. Le grandi province, le eccellenze: Livorno, Trento, Bolzano, Genova, Parma, e ci sono poi anche Aosta, Treviso per quel che riguarda gli sport individuali, ma soprattutto se ci state ascoltando da Caltanissetta, da Taranto, da Foggia, Caserta, Vibo Valentia, Agrigento, Crotone, cioè quelle province che si sono piazzate in questa classifica in fondo, fateci sapere perché, cosa, dove voi interverreste. Intanto noi vogliamo andare in un posto molto particolare, dove si pratica uno sport molto particolare per l'Italia e addirittura dove c'è una squadra campione d'Europa. Ecco, in questo posto fin da piccoli si pratica il baseball, e il perché lo spiegheremo tra pochissimo, e si ha un ricordo particolare di una giornata particolare rimasta nell'immaginario collettivo. Infatti lì vecchi, giovani, donne, uomini, bambini si ricordano di quando venne Joe DiMaggio. Non volendo, io ho avuto l'onore di vedere il più grande giocatore di tutti i tempi, Joe DiMaggio, venne a Nettuno quando stavamo al campo lì. Io giocavo già in quella squadra quando venne Joe DiMaggio nel 1957, credo. e siamo rimasti tutti molto affascinati da questo signore in borghese, no? Che mi ricordo, le prime cose belle del baseball le abbiamo viste da Gioia Di Maggio. Non pensavo che una star del baseball americano potesse essere così umile, stare in mezzo a noi. City of Baseball, un documentario che ha fermato questa passione incredibile di questa zona d'Italia per il baseball. E con noi c'è Giovanni Colantuono, l'addetto stampa della Danesi Caffè Nettuno, la squadra di baseball di Nettuno, campione d'Europa in carica. E dunque a Nettuno si parla ancora di quella giornata, sulle panchine, abbiamo visto nei bar, nei luoghi di aggregazione. Buongiorno, benvenuto Giovanni. Buongiorno e grazie. Perché? Perché questo amore per il baseball? Cosa è successo a Nettuno? Beh, possiamo dire quasi una favola, no? L'abbiamo sentito anche nel ricordo, tra l'altro le persone che hanno parlato nel piccolo breve pezzo di City of Baseball che voi avete appena trasmesso, uno è l'attuale manager del Nettuno, Giampiero Faraone, è stato un grandissimo giocatore anche con la nazionale italiana. Pietro Monaco, un grandissimo lanciatore del Nettuno, appunto, che ricordavano l'evento di Gioia Di Maggio del 57. Ma prima del 57 già esisteva questa squadra di Nettuno? Come, qual è l'origine storica di questo amore per il baseball a Nettuno? L'origine viene dal lontano 45, all'indomani del 22 gennaio del 44, quindi dal momento dello sbarco delle forze alleate qui sulla costa tirrenica. E passata la guerra, passato l'evento bellico, negli attimi di pausa le forze americane che erano di stanza proprio qui su Nettuno, ricordiamo che lo sbarco è ricordato come lo sbarco di Anzio perché sulle cartine dell'epoca gli americani usavano segnare le punte estreme della costa e quindi a segnare il nome di sbarco. Altrimenti di ci sareste stati anche voi. Sì, perché diciamo le forze inglesi e americane iniziarono a sbarcare, diciamo, il tratto di costa da Torre Astura, e da Torre Astura fino al centro storico di Nettuno erano tutto un reparto americano. Dopo, più avanti, cominciarono le forze inglesi e di fatto oggi il cimitero americano è su Nettuno e il cimitero monumentale di inglese è su Anzio. Quindi, diciamo, fisicamente i mezzi anfibi, il battaglione americano sbarcò sulle spiagge di Nettuno. E nel tempo libero c'è i soldati alleati, perché appunto lei allarga questa definizione, quindi c'erano canadesi, c'erano inglesi, le forze alleate, insomma, giocavano a baseball, insegnano alla popolazione questo sport che era una novità. Iniziarono a tirare fuori guantoni, mazze, palline e cominciavano a giocare. E la gente qui vedeva, ma cosa fanno questi qui? Tant'è che un Alberto Fasano, che è il pioniere per il baseball italiano, che era un ufficiale di polizia che era nella scuola sottufficio, nella scuola di ispettori di polizia di Nettuno, incuriosito cominciò, prese un gruppo di ragazzi e cominciò a farli giocare, diciamo, questa è l'origine. Qualche anno più tardi, nel 48, è nata la prima squadra, che era la Libertas Nettuno, che è, diciamo, il capostipite dell'attuale Nettuno Baseball Club. Comunque è vero che ancora oggi a Nettuno voi regalate ai bambini i guantoni da baseball come regalo della prima comunione o di date importanti? Sì, sì, è vero. Oggi i regali più importanti che i bambini possono ricevere a Nettuno sono un guantone nuovo, una mazza nuova, una pallina, un cappellino con la N. È vero, è verissimo, per i compleanni, per un cappellino con la N. Sì. Qual è il grande rivale del Nettuno? Ma diciamo che rivali ce ne sono molti, perché questa serie di vittorie impressionante, Nettuno è la squadra più titolata d'Italia con 17 scudetti, 6 coppe dei campioni, più titolata d'Europa anche. Negli anni hanno un po' tutti provato ad opporsi allo strapotere di Nettuno, quindi Rimini, Bologna, Parma, Grosseto, Milano, negli anni 60 il Milano aveva una squadra molto forte, Firenze, quindi ti ho citato tutte quante. E voi invece siete ancora campioni europei in carica in questa piccola realtà. Quanti abitanti ha Nettuno? Nettuno ha circa 40-45 mila abitanti. E quindi è ancora più straordinario il successo, la visibilità ottenuta. Ora vorrei a questo punto invitare anche il sindaco di Livorno, che ha ragioni per inorgoglirsi a sua volta. Buongiorno, dottore, la devo chiamare dottore nel senso che lei è un medico, oncologo, Alessandro Cosimo. Buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno a lei, grazie. E Livorno ha ragioni per andare così col petto in fuori oggi in mezzo a tutte le province? Avete ottenuto delle eccellenze straordinarie, vuole citarle lei? Ma sì, molte sono tradizioni, mentre ascoltavo anche il racconto che veniva fatto su Nettuno, molte sono tradizioni comuni. Noi abbiamo per esempio avuto delle esplosioni di eccellenze negli anni, per esempio come il basket, perché per un lungo tempo abbiamo avuto due squadre in A1, proprio per la tradizione di un legame con gli americani, che hanno una base importante accanto a Livorno e che avevano portato qui una grandissima tradizione. Poi alcune sono proprio nostre. Ma parliamo anche di sport individuali. Certo, se penso alla scherma, per esempio, se penso per esempio al canottaggio, se penso a moltissimi di questi sport. Insomma, si fa di tutto a Nettuno e si conquistano anche podi internazionali. Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno, le ho attribuito anche la prima poltrona, la poltrona del primo cittadino di Nettuno. E come vede, insomma, così noi gli diamo i titoli. E dicevamo, si fa di tutto a Livorno, si raggiungono questi grandi risultati a livello internazionale, diciamolo, perché dietro ogni medaglia ci sono sforzi, allenamenti, frustrazioni, digiuni, diete. Giulia Quintavalle, l'oro della judoka Giulia Quintavalle, sto pensando a Pechino. Nominiamo anche Luca Agamennon nel canottaggio, specialità 4 di coppia. Nominiamo Aldo Montano, è giusto, bronzo nella sciabola a squadre. E c'è qualcuno che sto dimenticando, sindaco di Livorno? Ce ne sono diversi negli sport. Lo faccio a lei, lo faccio a lei. Abbiamo avuto una grande tradizione, per esempio penso al tennis, abbiamo forse quello che è il miglior giocatore italiano in questo momento, che è Volandri. Abbiamo avuto una tradizione di giocatori di Davis come Martelli, come Criscuolo. Cioè, direi che la provincia e la città hanno prodotto tantissimi ragazzi di grande talento, fra le altre cose. Senta, le voglio dire anche qualcosa che ci segnalano gli ascoltatori. Cioè, a volte il funzionamento degli impianti in maniera efficiente che poi fa sì che si possano allenare i campioni di domani. Dunque, vorrei far fare atletica leggera ai miei figli, ma in tutta la Brianza ci saranno sì e no 4 impianti, uno ogni 200 campi di calcio, e quindi per portarli su una pista, io che sono un genitore, no? Ci segnala Stefano, devo fare 15 chilometri, eppure l'atletica dovrebbe essere la base di tutti gli sport, poi non tutti si possono permettere queste assenze dal lavoro, questi viaggi, e quindi semplicemente i ragazzini rinunciano. Segnalo il velodromo a Torino, magari fosse attivo, e via di seguito. Voi che cura mettete negli impianti? Ne parlate? Ogni anno aggiornate i bilanci per il mantenimento? C'è qualcuno che vorrebbe tagliare? Come va il dietro le quinte di Livorno quando Livorno si organizza per lo sport? Intanto bisogna dire la verità, cioè bisogna dire che questa è una grande tradizione, quindi come si vede se quando parla di Aldo Montano, per esempio, se pensa alla tradizione del Fides, del circo della scherma di Livorno, sì, che è un circolo fra le altre cose, la struttura è pubblica fra le altre cose, quindi molto accessibile anche dal punto di vista del prezzo, diciamolo, insomma. Esattamente, cioè, c'è una tradizione che non riguarda solo l'amministrazione che ho l'onore di dirigere, che direi ha riguardato proprio una politica, cioè una scelta di mettere a disposizione impianti. Poi al meglio non c'è mai fine, per cui per esempio in questo momento sull'Atletica stiamo facendo un'operazione per coprire una tribuna in modo che possano tornare i meeting internazionali, però l'impianto è praticamente in centro, è sul mare accanto allo stadio di Livorno e i ragazzi possono accederci con facilità, soprattutto le scuole. Noi abbiamo una politica che vede due gambe, la prima di dare alle società la gestione e quindi di coinvolgerle direttamente, e la seconda di coinvolgere le scuole. Come sempre nei momenti che stiamo vivendo non è semplice per una questione di bilancio, però insomma, ecco, diciamo che cerchiamo di essere su cultura e su sport seri proprio come idea di momenti di sviluppo della realtà che viviamo. Poi io ho anche una mia idea, che più che i ragazzi fanno sport e più che riescono a vivere una sorta di parabola della vita, no? Cioè grande competitività però nelle regole, e dall'altra le famiglie stanno fuori. Insomma, un grande insegnamento, e le famiglie stanno fuori, no? Questo è importante, cosa intende? Intendo dire che le famiglie stanno fuori, cioè vivono negli spazi pubblici, hanno relazioni, e quindi questo fa avere neanche meno paura, meno rinchiudersi, e diventa una cosa che fa anche, ora dico una parola grossa per un'intervista sullo sport, ma insomma fa anche democrazia di un territorio, no? Certo. Magari per un sindaco è più faticoso, nel senso che non funziona una cosa, c'è il problema dello spogliatoio dei bambini più piccoli, diventa un problema drammatico, c'è la raccolta delle firme, però effettivamente i genitori sono coinvolti. Beh, lo sport può diventare uno strumento, lei ha parlato di democrazia, anche di integrazione degli immigrati, di integrazione dei diversamente abili, è una grandissima arena dove si può proprio mostrare il meglio degli esseri umani. E dunque Livorno si prende questa palma, se la tiene stretta, segnalateci, dicevamo, al 349-238-6666 le cose che vorreste vedere migliorate nella vostra città. Intanto però è una novità a metà quella di cui stiamo parlando stamattina, cioè i grandi centri, Milano, Roma, Torino, in realtà occupano delle posizioni piuttosto così modeste in questa classifica nazionale, nel senso che sono sempre le città cosiddette tra virgolette di provincia a dare il meglio. Le grandi aree metropolitane, abbiamo forse l'eccezione di Genova che sale dall'undicesimo al quarto posto, Bologna si conferma in ottava posizione, ma Roma per esempio nel 2007 era quindicesima, ora è diciannovesima. Milano era 26esima, è riuscita a far peggio, è andata 38esima dal punto di vista degli indicatori di sportività, e Torino dal 36esimo posto è scesa al 49esimo. I grandi campioni anche del calcio, l'abbiamo trascurato finora, ma includiamolo, uno degli sport nazionali, vengono dalla provincia. Allora non è vero che bisogna nascere in un grande centro per avere le grandi occasioni di essere osservati, di essere selezionati. Lo chiediamo a Furio Zara. Buongiorno Furio. Buongiorno a te Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Furio Zara è un giornalista molto ironico, un inviato del Corriere dello Sport, è autore di Gamba Tesa, i brutti, sporchi e i cattivi, e poi ha scritto anche i bidoni, cioè i 100 nomi di coloro che dovevano essere i campioni, in teoria, del calcio italiano, invece sono diventati brocchi di razza. Ma noi concentriamoci sulle eccellenze. Questa storia della provincia che produce il meglio vale anche nel calcio? Furio. Sì, vale anche nel calcio. Allora, la provincia italiana funziona perché, lo si è detto fino adesso, c'è un ambiente che è pronto ad accettare gli atleti, c'è una capacità soprattutto nello specializzarsi, c'è una volontà nello specializzarsi. Abbiamo parlato di Nettuno con il baseball, abbiamo parlato di Livorno con la scherma, ma mi vengono in mente anche Treviso, dove sono stati fatti grandissimi investimenti per il rugby, per il basket, per la pallavolo. Mi viene in mente Iesi per la scherma, mi viene in mente Pallanuoto e quindi Lecco e Pescara, la pallavolo a Piacenza. Insomma, ci sono delle città che... Cioè sia sport individuali che di squadra. Certo, poi penso ai grandi campioni. I grandi campioni di oggi, i grandi campioni, i nomi di spicco dello sport italiano, sono tutti campioni trasversali, campioni che piacciono a tutti, campioni che arrivano dalla provincia. Aspetta, aspetta, allora, cosa vuol dire trasversali? Cioè che piacciono, che raccolgono, che piacciono consensi tutti, anche fuori dall'ambito. Esattamente. Esattamente, campioni che piacciono a tutti, e penso soprattutto a Valentino Rossi. È nato a Tavuglia, in quella striscia di terra che va tra Pesaro e Ravenna, la Romagna, terra di grandissimi campioni che nel motociclismo sono l'eccellenza dello sport italiano. Penso a Federica Pellegrini, che è nata a Milano, un paese alle porte di Venezia. Penso ad Alessandro Del Piero nel calcio, è nato a San Vendemiano, che è un paese vicino a Treviso. Hai ragione. Flavia Pennetta di Brindisi, Alex Schwarzer. Dove è nato Graziani, scusa, da Granata? Graziani, perché non lo citi? Ciccio Graziani, beh, perché Ciccio Graziani risaliamo alla preistoria. Comunque Ciccio Graziani è nato a Subiaco. Quindi, scusa, va Ciccio... sottolineato, per alcuni è la stella che è così mai superata, mai raggiunta. Vero, sì. Sì, sì, no, è la stella del popolo granata. E insomma, ci sono tutti questi grandissimi campioni che sono nati in provincia. La provincia ha due facce, che è un pregio da una parte e un vincolo dall'altra. È una culla, perché appunto accetta subito tutti gli atleti, ed è anche un trampolino di lancio. L'elogio della provincia sportiva qui in Italia si fa spesso. In realtà bisognerebbe proprio guardare nella provincia, guardare alla provincia, perché è lì che è il fucina, è la fucina dei talenti, ed è un laboratorio per i grandi campioni. In realtà poi c'è una geografia dello sport italiano che cambia ogni giorno, ogni anno si trasforma, come se pensiamo a certe isole dei Caraibi, no? Quelle che un anno ci sono e tre anni dopo spariscono e affondano. Sì, sì, ecco, altre questo... che emergono, affiorano, esatto, diciamo così. Esattamente. Altre rimangono fuori, poi scompaiono. Bisognerebbe pensare a questo, insomma, quando si parla di sport, quando si parla di sport in Italia. Poi, perché la provincia funziona? Probabilmente, se vogliamo buttarla sul filosofico, perché quando si prende una rincorsa più lunga si arriva anche più vicino al sogno che si sogna in quel momento, e quindi la provincia, che per sua natura è defilata, se ne sta in disparte, è in realtà un ottimo trampolino di lancio per tutti quelli che credono in un obiettivo, per tutti quelli che vogliono raggiungere qualcosa, e probabilmente in molti di questi casi ce la fanno. Penso grazie. Appunto a Valentino Rossi, che ha detto: sono nato a Tavuglia e non potevo che nascere qui. grazie Furio Zara per questo excursus in tutta la provincia, in tutti gli sport in cui l'Italia eccelle o si diverte, perché a volte semplicemente basta questo: la pratica, gli impianti e un po' di disciplina. Poi, se i risultati arrivano sul campo nazionale e internazionale, bene, altrimenti non è che tutti debbano salire sul podio olimpico. È uno strumento per realizzarsi, per trascorrere il tempo libero e, come ha detto il sindaco Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno, tra l'altro un medico oncologo, e vorrei proprio stimolarla su questo, lei che è dottore. Non abbiamo parlato dell'aspetto salutare del coinvolgimento sportivo, sindaco Cosimi. Ma sicuramente nell'elemento della pratica sportiva, oggi come oggi, è un elemento di grande importanza anche per il mantenimento della salute. Ovviamente ci vuole anche, come si direbbe, con grano salis, perché la pratica sportiva ha per tanti versi anche una faccia di una medaglia pericolosa. Però devo dire, per esempio, che la nostra città, che forse è la più americana delle città italiane, ha un lungomare che è una palestra a cielo aperto eccezionale, nel quale gente di tutte le età si mescola e vive questa sensazione fisica di libertà. E devo dire sinceramente che credo che sia un grande fatto positivo. Poi lo riscontriamo stupidamente, fare un volo planare in questo modo non è proprio scientifico, ma insomma. Però credo che, per esempio, lo si riscontri anche nell'indice sulla aspettativa di vita in una città come la nostra, che tra l'altro è una città industriale e portuale, quindi è una città impegnativa. Non è semplicemente un giardino. Quindi direi che sport e salute è un binomio assolutamente inscindibile. Grazie al sindaco di Livorno Alessandro Cosimi. Noi torniamo a Nettuno, Giovanni Colantuono. Vogliamo chiudere questa storia bellissima dell'arrivo di Gio Di Maggio. Tu non credo ci fossi in giro nel 1957. No, non c'ero, ma vive in noi grazie al ricordo di chi ha visto quella scena, ed era veramente qualcosa di... Lui era Gio Di Maggio, era il grande campione, aveva il cognome italiano, aveva una sensibilità italiana, però si presenta con la giacca, come a dire, con questi italiani non mi devo neanche mettere... Sì, lui era in visita a Roma e sapeva di questa culla del baseball a Nettuno e volle visitare la città. Lo portarono al vecchio campo di Villa Borghese, che è molto vicino al mare, finisce il campo. E lui tira e continua a fare fuori campo. Prima incassò due strike da Talia Boschi, che era un grandissimo lanciatore. Poi finalmente si toglie la giacca, cioè dà dignità anche agli italiani, capisce che è una cosa seria. Ora. E fece tre fuori campo, uno dopo ancora l'altro. Mitici. Grazie a Giovanni Colantuono per questo ricordo, per questa cartolina. Grazie Alessandro Cosimi, Furio Zara, a tutti voi che ci avete seguito. Da Irene Zerbini l'appuntamento è per domani mattina alle 7:15. Buona giornata.